Ci vado, ci vado. Come no? Ma che scherzi? Certo che ci vado, non posso mancare. No, non ci vado. Ma che figura ci fo? Resto qua. Ci vado, ora mi alzo e vo. Oh, ma questi non possono stare zitti un minuto, mi vogliono fare impazzire. Ora ci vo così non se ne parla più. No, no, non ci vo, come fo ad andarci? Non ci posso andare, saranno buoni buoni 400 chilometri. Oh, son tanti, se li conto bene forse sono anche di più. Solo per uscire dal paese ce ne vorranno una trentina. Poi una volta arrivato lì, in quella che chiamano la capitale ideale, per arrivare fino alla chiesa di chilometri tu ne devi aggiungere ancora. Tu vedrai. Quella non è mica gente che vive e si sposa nelle grandi città. Ma stiamo scherzando. Quelli la chiesa se la scelgono di fianco alle loro casette. A loro piace il verde, il vialetto, il cagnolino. La domenica vogliono la città a misura d'uomo, ma durante la settimana vanno a rompere i coglioni a riempire le strade di quelli che, è chiaro, dei verde, non gliene frega mica nulla. A loro piace il cemento. No, come si fa, non ci posso andare. E poi, anche se volessi, non c'ho la macchina. E non mi va nemmeno di chiedere un passaggio a questi qui. Oh, sono arrivati in 300. Ce ne fosse uno con la macchina. No, da qui il treno diretto non c'è. Volendo ci sarebbe un pullman, sì, ma uno solo, che arrivare ci mette una vita. No, via via, come si fa? Non si può proprio fare. Certo, ci si sposa una volta sola, così almeno dicono. E comunque è inutile stare qui a pensare se ci si può andare o no, non si può e basta. No, anzi, ho cambiato idea, ci vado. Faccio l'autostop fino alla stazione dei treni. È vero che da queste parti passa una macchina ogni ora se ti va bene, ma è altrettanto vero che proprio per questo motivo quell'unica macchina si fermerà certamente. Se poi non si ferma, non tutto il male viene per nuocere, come si suol dire. Ma si ferma. Come si fa a negare un passaggio a uno come me? Si intende che il viaggio non sarà della massima comodità. Generalmente i sedili delle auto degli abitanti di queste zone sono sempre pieni di attrezzi vari che io dovrò spostare per farmi posto. Ma quel che conta è che alla fine arriverò. Darò una mancia stratosferica e ringrazierò. Al che certamente il conducente si sentirà in dovere di dirmi: l'accompagno ai binario. No, ma che sta scherzando? E andrò a prendere quel che si suol definire il primo treno. Il primo treno, per quella che sono in molti a dirlo, viene denominata la vera capitale di questa nazione. No, non ci vo, meglio lasciar perdere. E poi a pensarci bene, non sono stato nemmeno invitato. Il viaggio poi sarà un inferno. Oggi è un giorno di festa, il treno straborderà di gente. Gente che aspetta di prendere il treno solo per poter parlare del maltempo, del governo, dei ritardi dei treni, che in questo paese, bisogna ammetterlo, sono superiori a quelli di qualsiasi altro paese nel mondo. E poi certamente ci sarà qualcuno che domanderà: lei che fa nella vita? Ho cambiato idea, ci vo'. Me ne starò in piedi gli ultimi minuti di viaggio. Sarò il primo passeggero a scendere e ad andare incontro senza alcuna paura a quella che molti, troppi, chiamano la capitale ideale, che in realtà altro non è che una normalissima piccola metropoli, grande poco più di un quartiere di New York. Una città dove per almeno 10 mesi all'anno non si vede altro che nebbia e soldi. Proprio da quelle parti doveva sposarsi la puttanella. Del resto non c'è da stupirsi, si fanno grandi matrimoni in quelle zone. Mi farò spazio tra la folla e prenderò il primo taxi senza nemmeno chiedere il prezzo. Mi farò lasciare proprio davanti alla chiesa. Tutti dovranno notare come sono arrivato. In molti mi dovranno vedere dare la mancia al tassista e dire: tenga il resto. Mi guarderò intorno e osserverò da una certa distanza. È meglio che lei non mi noti subito. La sorprenderò quando sarà già all'altare. Allora le dirò, senza mezzi termini, di lasciare immediatamente quello là, che non è adatto a lei, che io lo so benissimo di cosa ha bisogno lei. Io non posso non saperlo. Sono suo fratello. Un fratello sa sempre qual è la cosa migliore per sua sorella. Lo sa, come si suol dire, istintivamente. Che lasci quell'uomo mediocre, ripugnante, per giunta ricco come uno svizzero, il che vuol dire, come molti già sapranno, molto, ma molto più ricco di un italiano ricco. Volevi una festa? Eccola la festa. L'ho preparata solo per te. Lascialo e sarai la regina. Lo so che la volevi. Benché io odi le feste, benché io odi gli uomini che vanno alle feste, ne ho personalmente organizzata una per te. No, non ci vo'. Non ci posso proprio andare. che poi in chiesa mi toccherà sopportare il puzzo di trucco di tutte le signore, tipiche di certe città. Brave solo a farsi il segno della croce per far vedere bene lo smalto perfetto sulle loro unghie. Del segno della croce non gliene importa evidentemente nulla, ma far vedere le mani curate è fondamentale. Brave caste signore, caste che sognano di essere puttane, e li riesci anche bene, benissimo direi. Parlotteranno fra di loro le belle signore, perché si intende. Queste signore parlottano, non parlano. Si faranno il segno della croce e mi scruteranno da capo a piedi. Diranno fra di loro sottovoce, ma in modo che io possa ascoltare. Dicono che quello sia il fratello della sposa, quello pazzo da cui lei è scappata per disperazione. Diranno disperazione ad alta voce, per essere certe che io lo senta. È un pianista. Io non l'ho mai sentito nominare. Dicono che abbia studiato con, dai, quello famoso, brava, Glenn Gould. E sono sicuro lo diranno così ad alta voce che tutti lo potranno sentire. Tutti diranno proprio Glenn Gould. E su Gould in molti si gireranno a guardarmi. Però non è male, eh? È in quattro tempi. Il segno della croce è in quattro tempi. Come è potuto? A me, proprio a me. Ho rinunciato a tutto per prendermi continuamente cura di te. Sempre a chiedermi posso uscire, posso mettermi tacchi, posso andare a messa. Mi domandavi di continuo consigli su come vestirti. Mai una volta che non te li abbia dati. Venivi sempre prima di tutto. Sì, tu, proprio tu. Cosa c'entra, Angela? Ad Angela non ho mai permesso di mettere piede in casa nostra, neppure in tua assenza, neppure nel soggiorno. Angela è una locandiera. Qualche volta sono andato nella sua locanda, come si suol dire, a dormire con lei. Buona a nulla, fallita e per giunta brutta. Adesso te lo posso proprio dire senza peli sulla lingua. La natura con te è stata davvero spietata. Ti sei sempre distinta per la tua bruttezza e col passare degli anni non sei certo migliorata. Le massacranti diete a cui ti sei sottoposta non hanno fatto che peggiorare una situazione in partenza già compromessa. E nemmeno il cervello ti ha salvato, perché sei sempre stata stupida e nonostante la mia presenza la situazione non è mai cambiata. Una vita dedicata completamente a lei e al suo benessere. L'ho accudita come se fosse la mia bambina e ora lei, proprio lei, mi volta le spalle per andare dietro al primo stronzo che l'ha voluta e non mi spiega ancora perché l'abbia voluta. Uno che è arrivato dove è arrivato per chissà quali ragioni, non le voglio neanche sapere, che dice a tutti che si è fatto da solo, che gira la Svizzera con i suoi inguardabili mocassini con fibbia d'ottone ai piedi, che torna solo per il weekend per mettersi in pantofole e accarezzare il cane mentre lei li prepara da mangiare in una città che non puoi neanche nominarla, che sono tutti lì pronti a correggerti come dei maestrini nemmeno avessi bestemmiato. Monza, non Monza. Si dice Monza. Ma vaffanculo. Monza è una perversa creazione verbale, un obbrobrio della lingua. Ti insegna anche lui a suonare il pianoforte, eh? Glielo hai detto che lo studi fin da bambina e che in 46 anni non sei riuscita a imparare quasi nulla? No, gliel'hai detto. Mi dispiace, ma te lo devo proprio dire. Hai sempre suonato come una troia. Una cosa però le veniva bene, questo devo proprio ammetterlo. Voltare le pagine, in quello era proprio brava. Aveva, come si suol dire, del talento. E adesso la mia geniale volta pagina è lì, tutta fiera nel suo abito bianco, fiera di scambiarsi l'anello con un manichino in frac. Ti piacerebbe che ora ci fosse il babbo a prenderti a braccetto e portarti all'altare, ti piacerebbe. Ti piacerebbe che ti dicesse che sei la sua principessa, che sei la più bella, mentre una lacrimuccia gli spunta sul volto. No, non c'è il babbo è morto. ha frenato sul ghiaccio ed è finito in una scarpata. Ha fatto un volo di 30 metri e si è sfracellato al suolo. E con lui c'era anche la mamma, mia bella piccola orfanella. Ti sono rimasto solo io, ma a quanto pare non ti sono bastato. E così da un momento all'altro te ne sei andata senza nemmeno fare le valigie e mi hai lasciato lì, tutto solo, nella grande casa di Firenze, come un soprammobile, a passare da una stanza all'altra. L'ho chiusa a chiave quella casa. L'ho chiusa a chiave così tante volte che non ci sarà più bisogno di riaprirla. Me ne sono andato in campagna, nella casa che piaceva tanto al babbo, e ho organizzato una festa per te, che mi odiavi perché non volevo vedere mai nessuno, perché non permettevo mai ad un ospite di entrare in casa per più di un'ora. Oggi ce ne sono 300 di ospiti in casa. Sì, hai capito bene. 300, mica uno o due. Sì, va bene, forse anche qualcosa di meno. Io comunque ne ho invitati 300. Poi si sa come vanno queste cose. All'inizio tutti ti dicono che vengono. Ma che scherzi, ma non posso mancare. Poi all'ultimo momento cambiano idea. E mica si degnano di avvertire. Ma stiamo scherzando. Semplicemente non vengono. Non chiedo tanto, una telefonata, che so, una letterina non costa niente. Ma cos'altro mai ci avranno da fare, mi dico io. A parte che anche quelli che sono venuti non mi hanno mica ringraziato. Adesso sono tutti lì, che scherzano, ridono, ballano, si baciano, si abbracciano. Sembra che non possano fare a meno uno dell'altro. Ma se non era per me, non si sarebbero mai più rivisti in vita loro. Dicono d'essere artisti, ma sono diventati più o meno tutti maestri di musica. Perché si sa, chi sa fa, chi non sa fare insegna, chi non sa insegnare, insegna musica. Guardali, guardali. C'è chi ride sguaiato, c'è chi canta, c'è chi balla con estrosi cappelli in testa. Non ho mai capito perché per quelli che si dichiarano artisti il cappello diventa un accessorio obbligatorio. Comunque, tutti fumano, tutti hanno un bicchiere in mano. Alcuni lo tengono semplicemente in mano, altri ne stanno facendo fuori uno dopo l'altro. Non c'è nessuno che non si fabbrichi da solo le sigarette, cosa che ora, complice l'aumento dei prezzi, sta andando sempre più di moda. Ora te dimmi che bisogno ha quello di urlare così tanto, quando le persone con cui sta parlando sono a meno di un metro da lui. E che bisogno c'è di stravaccarsi sul divano in quel modo? Io ho detto di fare come se foste a casa vostra, non al circo, c'è un limite a tutto. E perché quell'altro continua a buttare la cenere sul tappeto? Ci sono i posacenere apposta! Bravi, bravi! Siete proprio bravi! Complimenti! Continuate così! Mettetevi pure a ruttare, mettete pure i piedi là sopra, mettete pure i bicchieri per terra, ma mettetevelo pure nel culo! No. E che fa questo? Non ci posso credere. Sta avvenendo proprio qua. Oh, tutto bene? Facevi dei versi prima, tu m'ha spaventato. Sembravi uscito dai manicomio. Di malati di mente qui ce n'è già abbastanza. Se va di fuori pure il padrone di casa, siamo finiti. Comunque ti volevo dire che la casa è davvero bella. Non me la ricordavo così grande. Va bene che un montun ci si vedeva. Saranno almeno 10 anni. Senti, toglimi una curiosità. Quanti secoli sono che non tocchi il pianoforte? Ci ho messo le mani 2 minuti fa. È completamente scordato. Non si può mica suonare su una roba del genere. Tu hai completamente smesso. Tu mi devi aggiornare. Che t'ha fatto tutto questo tempo? Oh, un fare che la faccia, dai, sto scherzando. Scherzo sempre io, tu lo sai, non sono mica cambiato. Sono sempre la solita fava. Oh, un parlare troppo, c'è il rischio mi emoziono. Tu lo sai che faccio il critico ora? Era meglio fare il pianista, però non si vedeva una lira. Almeno qualcosa di mio ora riesco anche a guadagnarlo. Tutto sommato non è nemmeno male. Me ne posso giù per la penisola, spesso anche all'estero. Tutto pagato, ovviamente. Mi vedo un monte di città. La musica spesso fa cacare, ma in compenso si mangia quasi sempre bene. Se questi continuano così, mi sa che ci tocca chiamare la Neuro. Ma li vedi? Te dimmi come si fa a sentire certa musica dopo 10 anni di conservatorio. E a ballarla pure, questo è il grave. Bach, Beethoven, Schoenberg. E si finisce con il latinoamericano. Siamo veramente ridotti male. Che cosa non si fa per un po' di fica? Ora, io un dio di mettere la 109 di Beethoven, ma una via di mezzo c'è. Al limite anche in Audi va bene. Allevi. Ma questa roba non si può proprio sentire. Dico bene, bisogna fare qualcosa. Te, in quanto padrone di casa, dovresti intervenire. Non mi dirai che adesso anche a te piace questa roba? Allora, o che sei in silenzio stampa? Non avrà mia intenzione di rimanere in quest'angolino tutta la sera. Sia chiaro, la festa è tua, amica mia. Te puoi fare che ti pare, però da quando siamo arrivati tu stai per i cavoli tua. Se ti abbiamo fatto qualcosa di male, dillo. Io ora torno di là. E se non la smettono questa musica, intervengo io. Dico tu, m'ha autorizzato te. Tra l'altro ho visto tuccio tutto Glenn Gould. Magari gli metto qualcosa di suo. Ti dovrebbe fare anche piacere. Non era un tuo grande amico. No, magari non eri il tuo migliore amico. Però se non mi sbaglio, tu lo conoscevi piuttosto bene. O non c'era mia anche lui e il corso di perfezionamento che ha fatto a Salisburgo. Almeno rispondi. Senti, nel frattempo io intervengo per la musica. Va bene? Tu lo sai. Chi tace acconsente. Chi tace acconsente. Chi tace acconsente. Chi tace acconsente. Questo tu lo dici te. Chi tace è da vedere. Chi tace può consentire, ma può anche stare zitto. Voglio dire, chi tace può non aver nulla da dire. Ecco, finalmente ci sono. Chi tace non ha nulla da dire. E intanto questo le è bello andato via. Matteo, ora dimmi se uno deve farti una domanda e andare via prima che gli venga data una risposta. Voglio dire, tu mi fai la domanda, tu aspetti la risposta. Niente. Va di moda, Tu devi essere una scheggia. Superati 5 secondi tu sei fuori. Ti ritrovi a parlare da solo. E poi hanno anche il coraggio di dirti che sei strano. Ma dimmi te, io devo dedurre che tu ti sei già dato una risposta. Allora io mi chiedo, perché tu mi hai fatto la domanda? Chi tace acconsente. Ma io vorrei sapere chi è l'autore di questa espressione, un genio. Chi tace prende tempo. Chi tace pensa. Ma cosa fa? Io vorrei sapere chi gli ha dato il permesso di mettere le mani fra i miei dischi. No, non mi dirai che adesso... No, non ci posso credere. Perché devi sconvolgere l'ordine naturale degli eventi? Sei in netta minoranza, rassegnati, tu ti devi adattare. Se vogliono ascoltare un po' di latinoamericano, lasciali fare, c'è da capirli. È un pretesto per farselo diventare duro. Ma perché ti sei messo in testa di cambiare la musica? Non è necessario. Si possono fare tante altre cose, che so. Leggiti un libro, beviti un bicchiere di vino, fumati una sigaretta, mangia qualcosa, parla con qualcuno, corteggia una signorina, portala a vedere le stelle, portala anche in camera da letto. Al limite, se proprio non puoi fare a meno della musica e le mani non sai dove metterle, mettile sul pianoforte e suona qualcosa tu. Ma perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Bravi! Bravi! Tutti bravi! Ma dov'è il mio mastinaccio? Si nasconde. Sono qui, babbo. Potevi anche non venire. In fondo era solo un saggio. Dovere, dovere. e poi avevo bisogno di svagarmi un po'. Oh, non hai suonato male? Mi sembravi un po' emozionato, però si vede che ci hai messo impegno e questa è la cosa importante. Abbastanza, babbo. Senti un po', muoio dalla curiosità di sapere chi è quell'americano che suonava in quel modo. Che roba, Ma sei stato bravo, Mi sei piaciuto. Si vede che questo corso ti è servito. Hai sempre le mani belle pesanti sui tasti, Sei un mastinaccio. Però, insomma, un po' di strada l'hai fatta. Un po', babbo. Allora, chi è questo americano? Si chiama Gould. Lo invitiamo a cena? Non è americano, è canadese. Americano, canadese, è uguale. Che differenza fa? Oltreoceano, sono tutti e due d'oltreoceano. Certo, babbo. Oh, ti faccio fare un figurone, Vi porto in un ristorantino. Io credo sia impegnato. Non sarai mica geloso, No, ma che dici, babbo? Guarda che siete stati tutti bravi. Tutti! Chi più, chi meno, si intende. Tu poi sei quello che ci ha messo più impegno. Grazie, babbo. Di che cosa, scusa? No, del fatto che hai notato che ci ho messo impegno. Ho l'occhio lungo io, Vedo tutto. Allora, che si va a mangiare? Lo dico io al tuo amico mentre tu vai a prendere la giacca. Guarda, babbo, scusa, ma sono un po' stanco. Vorrei andare a dormire, ho proprio bisogno di dormire. Non volevo dormire quella sera. Volevo dimenticarmi di averti visto, di averti ascoltato. Ora te lo posso finalmente dire, vattene. Avrei dovuto chiudere la chiave la porta della mia stanza, come tu facevi con la tua. Io per entrare dovevo bussare, tu no. Io ero costretto ad alzare la voce per farmi sentire, tu no. Potevi strisciare con le tue pantofole fin dentro la mia stanza e rimanere lì, per ore e ore, in piedi, alle mie spalle, in silenzio. Chi tace non acconsente, babbo. Chi tace non ha nulla da dire. Chi tace ha altro a cui pensare. Beato te. Era il tuo fiato sul collo a farmi inciampare. Perché non te ne vai? Avrei dovuto dirti. Del resto tu di musica non hai mai capito niente. Perché non mi hai preso la mano e non mi hai portato lontano? Perché non hai abbassato il coperchio del pianoforte e detto adesso basta? Perché mi hai fatto alzare la testa ogni volta che guardavo a terra? Eppure, chi l'avrebbe detto che sarebbe arrivato anche il giorno in cui ti avrei desiderato ancora qui, solo per poterti toccare? Tu. Tu. Proprio tu. Ma io vorrei sapere chi ti ha invitato. Io non di certo. In questi 300 tu non c'eri. E chi ti ha dato il permesso? Chi? Ma che ti credi d'essere? No, non venire. Non venire qui, non venire, no. Adesso basta. La devi smettere di rinchiuderti in questo angolino. Sto parlando con te, non fare finta di non guardarmi. Io ti conosco bene, non mi prendere per il culo. Io lo so cosa stai pensando. Tu ci stai odiando, ci stai disprezzando, però in fondo vorresti essere lì con noi, a divertirti, a lasciarti andare. Non dire di no! E aspetta un attimo, cazzo, stai calmo. Non lo vedi che sto parlando? Ora arrivo, sono qui dal mio amico. Te ora mi devi dire la verità. Perché hai organizzato questa festa? Che cosa vuoi da noi? Perché tu vuoi qualcosa da noi. Non capisco ancora bene cosa, ma tu vuoi qualcosa. E non fare finta di non capire. Tu ci stai studiando, tu sei un grandissimo figlio di puttana, te lo dico io. E continua a non rispondermi, se ne sta qui a far finta di pensare. Ma cosa pensi? Non c'è niente da pensare. Tu non devi pensare, devi godere. Per esempio, guarda come se la ride il nostro amico lì. Te lo ricordi, vero? Non puoi non ricordartelo. Guardalo, guardalo come non si arrende al passare del tempo. 20 chili di pancia ed è ancora lì che saltella come un ragazzino. Non fare quella faccia, l'hai invitato tu, mica io. Dai, dillo che ti sei pentito. No, aspetta, non dire niente adesso. Sta venendo qui. Sta venendo qui e vuole parlare con te. Non guardare me, è con lui che devi parlare. Sei tu il padrone di casa. Devi fare finta. Scusate l'irruzione, disturbo? Che ho rotto un momento di intimità? Allora posso sedermi con voi? Me ne vo via subito, non vi preoccupate. C'ho le gambe che mi fanno un male. È tutta la sera che ballo, mi son fermato un attimo. Che delirio sta festa. E che fanno quelli? Ma li vedete? Siamo proprio una banda di matti. Oh, ma ve lo ricordate voi? Come eravamo 20 anni fa? Tutti vestiti bene, tutti educati, tutti precisi. Te poi, tu ci avevi sempre i papillon. Eri proprio bellino. Guardate come siamo finiti. Oh, io un fo' per dire, ci avrò anche un po' di pancetta, ma almeno i capelli in testa ce li ho tutti. Certa gente però non si può proprio vedere. Se ti sono rimasti 2 capelli in croce, o tu ti fai un trapianto, o tu te li tagli, che poi a me gli uomini pelati non mi sono mai dispiaciuti. Se poi te li vuoi proprio tenere, che ti devo dire? Mettiti un cappello. A proposito di cappelli, che dite voi, si deciderà prima o poi la Giuditta Veggiani a levarsi quell'obbrobrio che c'ha in testa? Voglio dire, già si fa prima a saltarla che a girarle intorno, se poi si mette anche quel cappello, prima o poi qualcuno la scambierà per un albero di Natale. Sono troppo cattivo, vero? Avete ragione, sto zitto, non parlo più. Ditemi qualcosa voi, però... Te, da quando siamo arrivati, che non dici una parola, che sei in meditazione? Lascialo stare, lo devi lasciare stare, lui sta pensando, non lo devi disturbare. Sta preparando il discorso che fra poco farà davanti a tutti noi. Perché tu lo sai che fra non molto ci dovrai fare il gran discorso, vero? No, no, non puoi dire di no, è un tuo dovere. Tu sei l'autore di questa festa, tu devi fare il discorso. E che dice tuo amico? Il discorso, davanti a tutti? Dio mio, io mi vergognerei come un ladro. Lui no, invece. Farà anche un figurone, te lo dico io, vedrai che spettacolo. Tu non ti preoccupare. Tu ora devi stare tranquillo e pensare solo a quello che dovrai dire. A tutto il resto ci penso io. Ti devi fidare del tuo amico. Io ora vado a prepararti il terreno. Quando sarà il momento tornerò e tu ti dovrai far trovare pronto. Non ci devono essere scuse. Non ci devono essere scuse. Non temere. Sarò una spalla perfetta. Con tutti sti discorsi mi ha fatto venire un mal di testa. A me quello mi pare matto. Io ora mi sa che torno di là a fare due salti. Te che rimani qui? Rimani qui a scrivere il discorso? Dai, vieni. Tu mi sembri un vecchio a star qua. Sei una fava. Sei una fava. Sei una grandissima fava. Mastino, sei una fava. Fanno i grossi a dirti cosa devi fare, capito? La gente ha bisogno di parlare, parlare, parlare. Non hanno nient'altro da fare. Tanto tu vedrai. Io il discorso, se non lo voglio fare, non lo faccio. E questa è una festa di merda. Lo pensano tutti, ma non lo dice nessuno. Sai cosa faccio ora? Lo dico io. Ora mi alzo in piedi, vado di là e lo dico. Questa è una festa di merda. E voi siete gente di merda. Tutti, nessuno escluso. Poi apro la porta e me ne vado. Chi è? Angela. E te? Che ci fai qui? Tu mi hai fatto prendere un colpo. Potevi almeno bussare, fare una telefonata, trovare il modo d'avvertirmi. Che si entra così a casa della gente? Non lo so io. Potevo anche essere impegnato. Comunque, ormai sei entrata. Che ti devo dire? Fai come se fossi a casa tua. Sei qui per svagarti. Mancavi solo te. Non fare quella faccia. Che fai? Ti preoccupi perché sei ancora vestito da cameriera? No, non ti preoccupare, non ci faranno neanche caso. Sono tutti ubriachi. E poi ti dice bene, le donne sono in netta minoranza, ti salteranno addosso. Sono dei buoni partiti, fidati. Allora, che fai? Non vai? Ah? Vuoi stare con me? Dici sul serio? Sei venuta qui per stare con me? E va bene. Certo, certo. E va bene. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Un giorno di te. Volevo qualcuno da incontrare. Da fare. La notte. Il giorno. Volevo qualcosa da sognare. Non so ballare. Mi sono innamorato. Perché piangi? Non volevo farti piangere. Credimi, mi fa piacere che tu sia qui. No, non ti devi preoccupare se sei vestita male. Non importa cosa si sembra. E poi tu non lo sapevi che c'era una festa? Non lo sapevi, vero? Parla, mia Angela. Se vuoi li mando via tutti e rimaniamo soli io e te, eh? Lo faccio se vuoi. Ma parlami. Non c'è bisogno di balbettare. Sono innamorato e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno. Lo sapevi che in questa casa ci ho passato tutte le mie estati? I bambini del paese mi venivano sempre a chiamare. Mattino, pomeriggio, sera. Mi venivano a chiamare per andare con loro a giocare a pallone. Ne mancava sempre uno per finire la squadra. Io non volevo andare. Da bambino volevo solo suonare. Oh, basta! È tutti i giorni che suoni! Tu ci hai rotto con questo pianoforte! Dai, vieni con noi a giocare! Qualche volta ci sono anche andato. Però non ero buono coi piedi. Allora mi mettevo in difesa, ma attaccava il più bravo dell'altra squadra e non lo mollavo mai, nemmeno se andava a pisciare. È per questo che m'hanno soprannominato Mastino. Non è che mi garbasse molto. Però che tu ci vuoi fare? Quando ti danno un soprannome è meglio far finta di nulla. Se fa finta di nulla, prima o poi la smettono, tu pensi? Con me non hanno smesso mai. Cosa? Angela, non capisco. Ma puoi parlare più forte? Sì. Sì, ho capito che mi devi dire una cosa, ma non ho capito cosa. Ma come? Scusa, cosa? I soldi? Ma cosa c'entrano i soldi? Puoi parlare più forte, per favore? Non me ne frega niente che è finita la musica. Hai bisogno di soldi. Ho capito bene? Sei venuta qui per chiedermi dei soldi. Non adesso, scusa. Sono impegnato. Sto parlando. E poi io il discorso non lo voglio fare. Sì, va bene, ne riparliamo dopo. Dopo. Dunque, ho capito bene. Vuoi dei soldi? Non ti sono bastati quelli che ti ho già dato. Te ne ho dati tanti, Non erano tanti. La cameriera è diventata una signora. Scusa, non me ne ero accorto. E basta con la storiella della locandiera che non arriva alla fine del mese. Te lo chiedo per favore. Basta con questo discorso. Non lo voglio fare. Te lo giuro, non lo voglio fare. Bravo, vai a berti un bicchiere che poi se ne riparla. Perché lo stai guardando? Ti piace? Vuoi andare con lui a berti un bicchiere? Vai, Angela, vai. Anzi, presentati che non l'hai ancora fatto. Vai e diglielo. Sono una puttana. Fidati, anche lui ce li ha i soldi. E se ci sai fare te ne dà anche più di me. Che fai, ti vergogni? Oh, perfetto, sta venendo lui qua. Cos'è, glielo devo dire io? La mia amica ti vorrebbe dire una cosa, gli hai 2 minuti. Dopo il discorso, certo, me ne ero dimenticato. Devo fare il discorso. Andiamo a fare questo discorso. Io lo devo fare. Sei sicuro? Non è mica facile per me. Voi, si capisce, siete artisti. Potete dire tutto. Parlate. E non dite niente. Potete trascorrere notti intere a progettare il giorno dopo di buon mattino. Essere pronti a fare il contrario. Sempre sull'attenti, pur di avere un battito di mani. Siete bravi. Siete molto bravi. Per questo io voglio fare qualcosa per voi. Ci tengo. Cosa sono queste facce? Su con la vita, allegria. Idea. Come ai vecchi tempi. Indovina il pezzo. Non siete contenti? No. Perché dovrei lasciar stare? Non è una bella idea. Allora, che cos'è? Non ci posso credere, nessuno lo sa. Prova tu. No, ma come? Non hai appena ottenuto la cattedra in conservatorio. Va bene, vediamo se sono più preparati quelli che si limitano a dare lezioni private. E tu? Allora? Niente, il buio totale. Coi maestri non è andata. Proviamo con i concertisti. Tu. Sì, va bene, te lo faccio lento. Non puoi non indovinare. No, non ci credo. Passiamo ad un altro. Tu. Nemmeno tu. E pensare che ti pagano pure. Guarda come se la ride lui. rimarrebbero i critici. Non te la senti, eh? Ti capisco. Facciamo così. Ve la dedico. A voi. Che musica, eh? Erano 10 anni che non la suonavo, ma leggo lo spartito tutte le sere prima di andare a letto. È per questo che la suono così bene. No, non la suono bene. Vogliamo parlare dei tuoi concerti. Non mi fare essere cattivo. E che dice il critico? Che dice, che dice, che dice? Com'è l'esecuzione? No, non mi dire che corro troppo. Guardalo, non parla più. Non la conoscevi, eh? Sbagli, dovresti imparare dai classici. Lascialo perdere, il computer. E tu, non fare quella faccia. Sono bravo io. Sono bravissimo. Sono molto più bravo di tutti voi. Ho capito, ho capito. Non c'è bisogno che lo diciate sempre. Non sono un genio come Glenn Gould. Non sono il numero uno, ma dai, almeno il numero due. E poi voi che cazzo ne sapete di Glenn Gould? L'avete mai conosciuto? Io, solo io posso parlare di Glenn. Un monte di volte l'ho detto. Un monte di volte ho detto che Glenn era il migliore. Prima ancora che gli altri dicessero che era il migliore del secolo, io, proprio io, ho detto che era il migliore. Glenn e la spietatezza, Glenn e la solitudine, Glenn e Bach. Oh, finalmente una persona intelligente. Bravo, vattene e portati via anche qualcuno dei tuoi amici. È un problema di macchine. Pago il taxi a tutti. Fuori, fuori! Glenn e le variazioni Goldberg. Glenn nel suo studio in mezzo al bosco. Il suo odio per la gente, il suo odio per la musica, il suo odio per la gente che ama la musica. Ma siete ancora qui, la festa è finita. Rassegnatevi, tutti a letto. Siete tristi? Mi dispiace, ma ve ne dovete andare. Questo non è un night. Fuori, fuori. Me ne frego della vostra insonnia. Andare, andare, andare. L'ultimo chiude la porta. La porta. Chiudere quella porta. Via, tutti via. Chiudi quella cazzo di porta. La porta. Chiudere la porta. L'ultimo chiude la porta. Chiudi quella cazzo di porta. Glenn. E la semplicità. Chi è? Ma Angela, e tu che ci fai ancora qui? Aspetti il gran finale. Ti deluderò, non ci sono finali. Ma no, sto scherzando. Tu stai aspettando i soldi del taxi, eh? Non mi dire di no. Aspetta, non te ne andare adesso. Ti devo dire una cosa. Domani parto, Angela. Vado a New York. Oltreoceano. Ho già preso il biglietto. Prenderò il primo volo. Da domani non mi vedrai più. Vai adesso, se vuoi. Vai. Vai, vai. No, no, aspetta. Ho già comprato una casa, Angela. Un attico da cui si vede la Statua della Libertà. Mi stabilirò lì e presto mi sposerò. Avrò tanti figli, una famiglia bellissima. Sarò un buon padre. Vai, Angela, vai, torna a casa. È tardi. Vai, vai, vai. Camminerò, Angela. Camminerò su marciapiedi immensi. Finalmente sarò un vero camminatore di strade asfaltate, come Glenn mi diceva sempre. Vai adesso, Angela, vai, vai, vai. Vai! Sono anche un po' imbarazzato a parlare. Non è che sia successo nulla di grave alla fine. No, non è tanto il fatto che si sia messo a suonare. L'era il modo in cui lo faceva. A un certo punto mi sono anche spaventato. Ho anche pensato di andare giù in paese a chiamare qualcuno. Però come tu fai? Tu li fai fare una figura di merda davanti a tutti. Voglio dire, alla fine non ti manca niente. Una bella casa tu ce l'hai, forse anche più di una. I soldi non ti sono mancati. Una donna non so se ce l'ha, ma coi soldi non è difficile trovarla. Tutto sommato non capisci bisogno di fare tutte queste scene. Prendi me. Anch'io non sono diventato un pianista. Però mi sono mia messa a fare il concertino su un pianoforte scordato. Oh, ci ha mandato a cagare tutti quanti. Secondo me gli deve essere successo qualcosa che noi non sappiamo. Si intende, o mi sono mio offeso. Io lo rivedrei anche volentieri. Se poi non ci dovessimo rivedere... Speriamo sia per colpa sua. Dai, fammi cominciare dall'inizio. Era un negozio come sempre, ma arriva un tipo con una busta e mi fa: è per lei, per me, una lettera. Non sapevo c'era ancora chi scriveva le lettere. Li divento pure rossa e mi fa: magari l'è qualcuno conosciuto da poco. Poi leggo il mittente e mi viene un colpo. Erano 30 anni che non lo vedevo. Non sapevo nemmeno se era vivo o morto. E che vuole ora questo? Comunque, apro e mi trovo una cartolina. Capito? Una cartolina. Una cartolina con la foto di Glenn Gould. Dio mio, volevo morire. E che c'entra ora Glenn Gould? Era una di quelle foto che ci sono anche sulle copertine dei suoi dischi, quelle dove sta tutto raggricciato sul pianoforte, insomma, quelle in cui lei è piuttosto bruttino. Comunque, mi riprendo dallo shock e scopro che sono stato invitato ad una festa d'artisti. Oh, passano 2 minuti e non mi telefona la Paola. Lacrimando dalle risate mi fa: oh, che sei un artista anche te! Insomma, in 4 e 4 8 scopro che l'aveva invitato più o meno tutti. E quando dico tutti, tutti, eh. Non ti voglio raccontare il casino per arrivare lì. Quello non c'è mia venuto a prendere. Ci siamo arrivati grazie al fiuto geografico dei Tommasi. A un certo punto, lungo il sentiero che portava a casa sua, non ci troviamo dei cartelli appesi agli alberi, tipo quelli dei matrimoni, con delle frecce su scritto. Festa d'artisti a 50 metri, poi a 20 e così via. Comunque, quando siamo arrivati alla casa, stavo per svenire. Proprio casa non l'avrei chiamata. Era un castello, non ci potevo credere. Ci si poteva trasferire tutti in mio condominio. Quando l'ho visto, poi, per poco gli scoppiava a ridere in faccia. Se me lo diceva era una festa di carnevale, mi mettevo in maschera anch'io. Oh, si era messa addosso tutto quello che aveva nell'armadio. Ora, sorvolo sulle scarpe bianche, ma il papillon quel cravattino non si può proprio vedere. Voglio dire, se tu sei indeciso, che vuoi che ti dica? Tira sorte. Me ne devo già andare, eh? Cattivo. Fantastico. Come faccio a dirtelo? Tu non sai quello che ti sei perso. Dovevi essere lì. Come faccio a farti capire? Ti devi immaginare uno che prima organizza una festa, poi passa tutto il tempo ad osservarla senza dire una parola. Lui ci ha studiato tutti quanti, ha osservato quello che facevamo durante la festa. Poi, al momento giusto, ha scatenato il delirio più totale. Si è alzato e si è messo a suonare Bach su un pianoforte completamente scordato. Non so se rendo l'idea. Se arrivi a fare certe cose, ci sono solo 2 possibilità. O sei completamente fuori di testa, o sei un genio. No, no, io non sono d'accordo con gli altri. Ascolta me, lui sta meglio di tutti noi. È riuscito a prenderci per il culo tutti quanti fino a che non ci ha sbattuto fuori di casa. Fidati, te lo dico io. Ora lui se la starà spassando con un bicchiere di vino in mano a ridere di noi, te lo dico io. Anzi, secondo me starà trafficando con la tettona della locanda, te lo dico io, sta meglio di tutti noi. Doppio whisky per me. Whisky? Acqua. Solo acqua. Alla fine, Glenn, mi sono preso sul serio. Perché ridi? Mi stai ridendo in faccia. Ho forse la faccia di un clown. Mastino si volta e cammina per raggiungere la panchina. Di spalle viene attraversato dal ricordo del corpo di Glenn Gould, raggricciato sul pianoforte. Sale sulla panchina. Dal fondo si propaga lentamente un controluce che invade la scena. Mastino gioca con la panchina, alla ricerca del coraggio per buttarsi giù. Vuole impiccarsi. D'improvviso, con un rumore sordo, la panchina cade.